Vorrei svenire come Dante dentro ad una selva, ritrovarmi col diploma pronto nella tasca. Non vedo la luce del sole perché c'ho l'esame di maturità. Tutti che vanno in vacanza, io vado in vacanza, quest'anno una gioia arriverà. Studio e non ricordo quasi niente, io mi applico, non sono intelligente, vorrei solo un aiuto, ho la testa che esplode. Non mi importa del voto, basta un 60 con lode. Tanto in prima prova lascio il foglio in bianco, lasciatemi dormire o mi addormento sopra il banco. Se penso dunque sono, allora non esisto, non risponderò all'appello e qui nessuno mi ha mai visto. Oui, oui. Altra nottata, oui, oui. Un po' agitata, oui, oui. Vuoi divertirti, oui, oui. La vedo dura.